Allora sì, anch'io ringrazio Raffaele per questo quadro che in parte non mi è nuovo perché di queste cose sue io ho letto e con lui ho discusso tante volte, e in parte è anche nuovo e quindi si giustifica un ringraziamento apposito oggi. E interpreto il mio ruolo in un senso non organico ma diciamo così come la possibilità di reagire ad alcuni dei suoi stimoli con delle riflessioni di natura anche molto diversa l'una dall'altra, e quindi io ripeto, non c'è una scaletta, alcune delle cose che volevo dire le ho pensate prima di venire qui, altre mi sono venute nella mente proprio ascoltando adesso Raffaele dire queste cose. Un primo discorso che trovo molto interessante, che è ancora lasciato aperto da Raffaele Simone, è quello che compare in una delle sue slide sulla fascinazione della vista, e cioè su questa impressione che abbiamo tutti, che qualcosa di visivo abbia più possibilità di catturare l'attenzione, più possibilità di coinvolgere rispetto a qualche cosa che si rivolga solo agli altri sensi. E naturalmente, come tutte le cose che sono suscettibili di spiegazione, ciò che è avrà pure una ragione. E allora azzardo una delle possibili ragioni, anche sotto forma di richiesta poi a Raffaele Simone di dire cosa ne pensa e se ha delle altre spiegazioni. Partirei, userei come metafora il cibo, tra due cibi ci affascina di più quello che è più saporito, per esempio tra due mele in tutto identiche, una che è maturata sull'albero, una che è stata raccolta un mese prima e ha avuto vicende mercantili e non sa di niente, quella che ci piace di più è quella più saporita, cioè quella che contiene di ciò che ci piace la maggiore densità, la maggiore concentrazione. Allora, in questo fatto che quando il positivo è più concentrato in qualcosa, questo qualcosa ci piace di più, si può trovare forse la ragione per cui la vista vince in fascinazione sugli altri sensi, perché la vista in sostanza consta di una quantità di informazione molto maggiore nell'unità di tempo. Se si va a vedere cosa succede nel cervello quando noi vediamo rispetto a quello che succede quando abbiamo percezioni da altre fonti sensoriali, vediamo che la quantità di cervello adibita alla visione è molto maggiore rispetto alla quantità di cervello adibita alle percezioni degli altri sensi. E quindi sarebbe come dire che una visione è una mela più saporita di una percezione della stessa realtà attraverso altri sensi, cioè con una maggiore densità di informazione. Una conferma di questa maggiore densità di informazione si ha dall'attuale possibilità di digitalizzare l'informazione e quindi di tradurre tutti i tipi di informazione, molti tipi di informazione, in un'unica unità di misura, che è il bit. E allora si vede che mentre la Divina Commedia in formato testo occupa circa mezzo mega, una qualunque immagine scattata dalle nostre macchine fotografiche digitali è almeno sui 3-4 volte 5 mega, e un'immagine fotografica gestita da un professionista è sui 25 mega e anche di più. Una singola immagine, cioè se io ora scatto una foto qui, ho 6, 7, al limite 50 Divine Commedie in termini di quantità di informazione necessaria per codificarla. E in qualche modo succede che quando io guardo una fotografia, magari banale, però tutta questa informazione è sapore della mela che mi arriva, mentre invece per avere una quantità di sapore anche solo paragonabile devo leggere diverse Divine Commedie. Chiaro che c'è un po' di paradosso, però parlando di densità dell'informazione sono delle cose abbastanza accurate, queste considerazioni. Allora, appunto, la mia è da un lato un'osservazione, dall'altro è la domanda a Raffaele Simone, tu che ti sei occupato di queste cose in maniera più approfondita, ti persuade un discorso del genere, o c'è dell'altro, oppure anche questo non ti persuade? Mi aspetto una continuazione. Sulla, in qualche modo, carrellata diacronica, storica, questo accompagnare l'umanità che ha fatto Simone nel nome della vista e di ciò a cui la vista è stata concepita a fine oppure anche proprio adibita, volevo provare a fare una specie di zoom out, e cioè inserire questo discorso in un discorso, se possibile, più generale, che è quello di come la civiltà si è evoluta nella gestione del rapporto fra l'informazione di tipo continuo e l'informazione di tipo discreto. Cioè mi pare che la nascita della scrittura sia stata un potente evento di sottrazione di una parte degli eventi visivi alla visione del continuo, e la vista è stata adibita significativamente nella vita di alcuni in maniera preponderante alla visione del discreto, perché la realtà è continua, eventualmente ha degli elementi di discretezza, per esempio in questa sala ci sono delle sedie che possiamo considerare discrete, nel senso separabili l'una dall'altra, ma nel complesso la visione della realtà naturale, per esempio, è una visione soprattutto di realtà continua. Mentre nel momento in cui adibiamo la visione a guardare il lineare segmentato e segmentale della scrittura, gli oggetti su cui ci curviamo sono oggetti assolutamente artificiali e discreti e che funzionano proprio perché sono discreti. Quindi c'è stato un movimento verso maggior ingombro del discreto nella nostra esperienza sensoriale, in particolare nella nostra esperienza visiva. D'altra parte succede poi quello che Simone ha segnalato, cioè che nella modernità, nella vera modernità, quindi ben dopo la nascita della scrittura e della stampa che la diffonde, si torna ad avere una situazione in cui la scrittura viene un po' più emarginata. Questo nel libro La terza fase viene svolto in maniera centrale, per cui le ultime generazioni sono disabituate alla scrittura e si sono riabituate a ricevere informazioni di tipo più continuo, cioè attraverso le immagini, e le immagini doppiamente continue, che sono le immagini in movimento, quindi continue sia nello spazio che in profondità, per così dire, nel tempo. Quindi un movimento inverso, che sembra, per così dire, far rientrare dalla finestra quel continuo che era uscito a causa della produzione di artefatti per la visione. Questi artefatti per la visione, che inizialmente erano soprattutto discreti, poi diventano invece anche continui e il continuo rientra dalla finestra. D'altra parte, però, c'è una macroevoluzione dal continuo verso il discreto, che non riguarda esclusivamente la visione, gli artefatti per la visione, e che è l'intera produzione di manufatto. Cioè la nostra civiltà è la civiltà di una specie che si è trovata nella natura essenzialmente continua. Anche una foresta, benché abbia degli alberi che in qualche modo stabiliscono una discretezza, perché distinzione tra ciò che è penetrabile, lo spazio fra gli alberi, e ciò che non lo è, quindi una scansione dello spazio, una discretezza dello spazio. Il mare invece, per esempio, è completamente continuo. Però anche una foresta consente a chi la attraversa delle scelte di tipo continuo, cioè io posso decidere di muovermi in una qualunque direzione, sui 360 gradi, anche sulle frazioni di grado, posso decidere di farlo a una qualunque velocità, eccetera, eccetera. Mentre quando sono in una città, per esempio, ho continuamente delle soglie, delle opzioni discrete del tipo entro in questo cinema o in questo bar. Cioè il manufatto discretizza e fa sì che ciò che abbiamo intorno lo esperiamo facendo delle continue scelte di dentro fuori. Cioè se io sono nel cinema sono totalmente nel cinema, se sono nel bar sono totalmente nel bar e per niente nel cinema e così via. E anche addirittura questa evoluzione verso il discreto arriva al massimo di discreto, che è tutto il mondo digitale, cioè dei software. Se io devo tagliare un albero con un'accetta, faccio scelte continue, cioè l'inclinazione, la violenza, dei miei movimenti, decido di colpire in quel punto dove vedo che è un po' sopra il nodo, e tutto questo lo faccio in maniera completamente discreta. Se invece di dare colpi di accetta do colpi di Photoshop, per esempio, o di WinWord, ho sempre un numero magari molto alto, ma finito e discreto di opzioni. Cioè mi trovo in un mondo nel quale posso scegliere tra opzioni preimpostate in numero finito e discrete, cioè separate l'una dall'altra. A un certo punto, per quanti arborescenti siano i menu, sceglierò quella cosa e scegliendo quella cosa escludo tutte le altre. Quindi il digitale, il mondo del digitale, è una ulteriore ingombranza, faccio come troppezza, del manufatto, che sempre più diventa importante nella nostra esperienza. Facciamo sempre più cose che impongono soprattutto scelte discrete anziché movimenti nel continuo. Sono consapevole di essere stato rapido, spero che comunque il tipo di idea ci sia. E allora mi sembra interessante eventualmente un supplemento di informazioni di Raffaele e Simone su, all'interno di questa contenitore più ampio, continuo discreto, qual è il ruolo della visione, oltre a ciò che ho solo accennato. Un altro punto che mi pare interessante, molto interessante, queste sono le posizioni alla Hannah Arendt o Jonas, oppure alla Orson Welles, cioè tutto quel discorso della visione come garanzia di distanza, quindi visione come evento che sottolinea la differenza tra il soggetto e l'oggetto, in qualche modo anche quindi l'indipendenza. E in questo, su questo c'è un episodio, diciamo, c'è un tema che forse è stato per la prima volta chiarito molto bene, o che almeno nel, per quello che so io della cultura francese viene normalmente riferito sempre come primo momento di sua, di piena consapevolezza su questo a Marcel Proust, è un episodio della Recherche che a molti sarà noto, in cui si parla di Françoise, la domestica, e si dice una cosa bellissima, cioè Françoise si commuoveva alle lacrime per episodi più o meno patetici di sofferenza che riportati dai giornali, quindi che riguardassero persone e cose di cui lei non aveva nessuna reale esperienza. Invece, se la stessa cosa capitava alla vicina di casa o alla domestica della vicina di casa, eccetera, lei aveva una freddezza, una asciuttezza, una noncuranza gelida, era algida e del tutto noncurante rispetto alle vicende reali, mentre se erano mediate in qualche modo, se c'era una maggiore distanza teoricamente, perché erano nel giornale, al limite potevano anche essere inventate, si commuoveva enormemente, partecipava molto. Allora, una prima possibilità è dire ciò che vedo effettivamente lo percepisco come indipendente da me, mentre ciò che mi arriva per altra via lo percepisco come mi tocca, mi include, mi coinvolge. Quindi come se ci fosse una specificità proprio della visione come capace di distanziare. Un'altra possibilità che mi viene in mente, di cui, per ragioni di cui sono debitore sempre Raffaele Simone, che ha attirato più volte la mia attenzione su queste cose, è che c'entri la categoria della narrazione. Cioè, forse il punto non è tanto cosa vista non mi coinvolge, cosa mediata, perché normalmente questo episodio di Proust viene interpretato anche in chiave più moderna, dicendo è la comunicazione mediata che per qualche motivo ci coinvolge più di quella diretta. Ecco, forse più che essere vista contro non vista, il punto è cosa narrata versus cosa non narrata, cioè l'evento nella sua evidenza, siccome non mi è narrato, siccome non viene scelto, non vengono scelte le sue nervature significative, può lasciarmi indifferente, mentre invece nel momento in cui si organizza in narrazione mi coinvolge. Questo metterebbe d'accordo il fatto che Proust non poteva averne naturalmente previsione. Oggi siamo di fronte a moltissimo narrato visivo. Prima, all'epoca di Proust, il narrato non era mai visivo, per definizione. Oggi c'è moltissimo narrato visivo, e cioè vicende create, e sono le ultime cose a cui accennava Simone, da mezzi che sono in grado di farlo attraverso immagini. E a me pare di poter dire, ma anche qui chiedo la tua conferma, questo narrato, ancorché visivo, è coinvolgente, cioè Françoise, se ci identifichiamo, Françoise, se la cosa andava in televisione, sarebbe stata commossa come si commuoveva per il giornale, mentre invece il fatto che la cosa fosse reale a impedirle di coinvolgersi. In questo caso, quindi, la visione sarebbe meno decisiva, la categoria determinante sarebbe narrato versus non narrato, se è un'ipotesi. Un'ultima ancora due piccolissime cose che volevo dire. Una è proprio una domanda, ed è interessantissima questa inerzia del vocabolario nei confronti della visione. Tu ci hai detto solo una parte di ciò che probabilmente potevi dirci, perché vengono fuori due domande molto chiaramente che ti giro subito, e cioè, primo, vale anche per gli altri sensi? Cioè, il lessico è altrettanto inerte nei confronti degli altri sensi, e quindi non è un problema fra il lessico e la visione, ma è un problema fra il lessico e la percezione. O comunque tra la capacità del lessico, tra la percezione e la capacità, l'intenzione, la necessità sentita del lessico di nominalizzare i fatti riguardanti la percezione, perché invece per i verbi non c'è problema. L'altra cosa avviene anche nelle altre lingue, cioè tipologicamente o comunque interlinguisticamente, siamo noi italiani che, oppure noi romanzi che, o c'è un universale in qualche modo, almeno tendenziale, linguistico. Un'ultima cosa riguarda il fatto che non tutte le scritture sono così lineari come la nostra. Cioè, qui sarebbe, naturalmente, esistono sicuramente anche dei tentativi di entrare in questo discorso, ma non ne conosco di completi. Interessante vedere quanto le cose che tu hai detto riguardo al momento in cui la scrittura obbliga a un tipo di visione del lineare, è un tipo di visione lineare, cosa avviene invece nei luoghi dove la scrittura è meno lineare, e cioè tutte le scritture, inizialmente ideografiche e poi a regime nelle civiltà che scrivono così, logografiche, cioè tutte le scritture in cui il carattere non è, il singolo carattere non è adibito a un suono, alla sua, diciamo così, corrispondente pertinente, cioè un fonema, ma è adibito a un'idea che poi diventa essenzialmente una parola. Però, insomma, il singolo segno sta per un concetto, anche se la cosa vera è che sta per una parola che esprime quel concetto. Cosa succede? Che la linearità è il salto da una parola all'altra, ma la singola parola viene percepita in maniera non lineare. A dire il vero, è notissimo che anche qui, magari tutti voi lo sapete, ma insomma, in realtà anche il nostro riconoscimento delle parole quando leggiamo delle stringhe alfabetiche è in gran parte gestaltico, cioè noi non le processiamo davvero in maniera lineare carattere per carattere, ma le riconosciamo a colpo, si fanno esperimenti, si vede che cambiando i caratteri ma lasciando il contorno esterno più o meno uguale, le parole vengono riconosciute come se fossero quelle corrette, eccetera. Su questo discorso, quindi, del fatto che ci possano essere scritture non alfabetiche, e quindi scritture in cui la linearità è meno pronunciata, conosco un testo molto interessante, che è la parte finale del libro di Jeffrey Sampson, Writing Systems, A Linguistic Introduction, qualcosa del, è un libro dell'85, in cui lui si pone un problema che anche voglio sottoporre all'attenzione di vostra e di Raffaele Simone, e cioè, naturalmente la scrittura è un espediente pratico, è soprattutto qualcosa che risolve, toglie un'enorme quantità di castagne pratiche dal fuoco, e allora questo prezzo da pagare della linearizzazione, eccetera, eccetera, quanto paga? E Sampson si pone un problema interessante che è abbastanza connesso con quello che stiamo dicendo, appunto con il quanto la vista viene linearizzata. Ed è: quale scrittura è più pratica, una scrittura alfabetica o una scrittura logografica? E vediamo, la risposta che lui dà dipende proprio dal modo in cui funzionano e vengono viste queste scritture. Noi normalmente nella nostra civiltà siamo convinti che la nostra scrittura alfabetica sia molto pratica, mentre quella logografica alla cinese o giapponese sia poco pratica. Perché poco pratica? Perché richiede un enorme tempo per impararla. Da noi, per diventare alfabeti, diciamo, capaci di leggere l'alfabeto, ci vogliono alcune ore di effettiva applicazione, mentre lì ci vogliono, nella realtà, poi anni di vita, molti anni di vita, è facile anche poi retrocedere nuovamente, insomma, è molto faticoso. Inoltre, per scrivere un singolo, quindi ci vuole molto tempo per impararla, la loro e poco la nostra. Per scrivere un singolo testo ci vuole più tempo con la loro, perché questi disegnini, che tutti voi avrete abbastanza familiari, almeno come idea passiva, sono un pochino più complicati da tracciare rispetto ai nostri poche decine di caratteri su cui si diventa immediatamente proficient. E la nostra, appunto, consente poco di scrivere un po' più rapidamente. Si fanno degli esperimenti, si vede, scrivi lo stesso testo in cinese e in italiano e a parità di sillabe, diciamo così, ci vuole molto meno tempo in italiano. Però in lettura bisogna dire che il loro sistema è più veloce. E questo perché non è linearizzato, cioè il riconoscimento dei contenuti di una pagina scritta in logografico, meglio ancora in ideografico, avviene in modo simile al riconoscimento di una fotografia, cioè si vede subito che cosa sta succedendo. E quindi c'è la possibilità di leggere senza arrivare fino alla piena disambiguazione di tutte le sillabe che io devo ritenere rappresentate in quella pagina, e capisco lo stesso, esattamente come da noi, se tutto sommato uno, senza vedere troppo le desinenze, se i morfemi lessicali, morfemi pieni, quelli che significano le cose e non semplicemente i rapporti fra le cose, avessero una maggiore evidenza, io capirei di che si tratta. E questo si vede nei paesi dove si scrive così, che la gente sfoglia i libri, dice lo sta sfogliando, no, lo sta leggendo. Quello che, il tempo che da noi ci vuole per sfogliarlo, da loro serve essenzialmente per leggere, molto veloce. Il discorso finale di Sampson diventa molto bello perché questo differente rapporto della scrittura con la visione, cosa produce? Dice giustamente Sampson, fino a poco fa il nostro sistema era sicuramente il più pratico. Oggi, che una volta codificato un testo e memorizzato in luoghi a conci, per riprodurlo in altre copie non ci vuole più nessuno sforzo. E quindi il singolo sforzo di codifica è compatibile con, al limite, milioni di risparmi di tempo in lettura, non è detto che il nostro sistema di scrittura sia ancora il migliore. Perché mentre prima tutte le volte che dovevamo riscrivere bisognava proprio riscrivere, e allora i cinesi ci mettevano più di noi, adesso una volta che hai scritto, lo puoi riprodurre, stampare, mandare ovunque, sempre a costo zero, e ogni volta c'è un risparmio in lettura. Quindi loro stanno guadagnando sempre terreno su di noi. È un po' una curiosità che però ha molto a che vedere col discorso della visione, anche qui mi interessa il parere sia di Raffaele Simone, sia, immagino che poi avremo degli interventi, e quindi ho già parlato anche troppo, qui mi fermo